Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buonasera a tutti da Gegè Telesforo, questo è il Soundcheck, appuntamento numero 261 con la prova del suono di Radio 24. E questa sera torniamo a presentarvi alcune prelibatezze dal repertorio jazzistico e vorrei iniziare con Marvin Parks. Avete mai sentito parlare di Marvin Parks? Sì, il nome americano potrebbe ricordare già qualche vocalist degli anni 40-50, invece Marvin Parks è un cantante della nuova generazione, nato negli Stati Uniti, ma che sta facendo la sua carriera a Parigi, un po' come successe a Didi Bridgewater, che già era una piccola stella negli Stati Uniti, andò a Londra a fare teatro dove interpretava Billie Holiday e poi, spostandosi a Parigi, ha trovato in quella meravigliosa città tutta l'energia necessaria per diventare col tempo una star di prima grandezza del jazz internazionale. Spero che la stessa sorte capiti anche al giovane Marvin Parks, vocalist americano che ripercorre un po' vocalmente e musicalmente il songbook classico americano anche con delle composizioni originali che si rifanno a quelle dei grandi compositori di quel periodo. Marvin Parks ve lo presento questa sera qui al Soundcheck di Radio 24 con questa sua composizione originale intitolata Never Been in Love Like This Before. Ecco, sembra proprio un titolo di una composizione di George Gershwin o di Cole Porter, invece è una sua canzone realizzata con musicisti anche loro residenti a Parigi, con i quali Marvin Parks quasi tutte le sere sfoga il suo swing e la sua passione per la musica e la vocalità. È facile incontrare a Parigi, magari durante un weekend, questo cantante americano che vi presentiamo qui con grandissimo piacere e tutta la sua vena umoristica al Soundcheck di Radio 24. Marvin Parks al Soundcheck. Sweep dup dee do dip do wee butter troverete la discografia di Marvin Parks su iTunes, bensì su un sito di riferimento per i giovani artisti chiamato SoundCloud, dove incapperete anche in questa splendida composizione originale molto divertente intitolata Never Been in Love Like This Before. Marvin Parks lo troverete a Parigi tutte le sere. E da Marvin Parks passiamo invece a quattro voci meravigliose e educate, quelle di Amy London, Damon Meader, Dylan Pramuk e Holly Ross, che firmano a quattro voci questo album molto interessante intitolato The Royal Bobsters Project, ovvero come riportare in auge la passione per il vocalist, quell'arte sopraffina della quale John Hendricks, Dave Lambert e Neil Ross sono stati i precursori, ovvero scrivere testi anche sugli assoli tipici della scuola jazzistica. È quello che fanno questi quattro meravigliosi cantanti con The Royal Bobsters Project, un album che spazia dal bebop ma anche a composizioni vagamente funk tipiche della fine degli anni 60, come un brano splendido scritto dal trombettista Freddie Hubbard, purtroppo scomparso diversi anni fa, intitolato Red Clay. La versione vocale si intitola On the Red Clay e c'è la partecipazione di un altro veterano, il meraviglioso Mark Murphy. Sì, ci sono varie guest in questo disco, altri cantanti, da John Hendricks, il nostro maestro, a Bob Durow, Sheila Jordan, Annie Ross e quindi anche Mark Murphy, che è la voce solista di questa versione di Red Clay di Freddie Hubbard per London Meader Pramuk e Ross, ovvero Royal Bobsters Project al soundcheck. Two and three and four. Soundcheck. Il suono della musica. Day I see children play, la voce meravigliosa e piena di passione di Javier Colón, che interpreta When I Come Home, una composizione originale del sassofonista Jimmy Green, che finalmente è tornato a scrivere musica e a realizzare un album bellissimo come questo Beautiful Life dopo anni di assenza, assenza certamente giustificata, perché il 14 dicembre del 2012 sua figlia Anna Marquez Green di 6 anni venne tragicamente assassinata insieme a altri 19 bambini e 6 educatori in una di quelle stragi terribili che avvengono negli Stati Uniti, nelle scuole, e in questo caso era la Sandy Hook Elementary School a Newton, nel Connecticut. Fatto sta che Jimmy Green, dopo questo terribile evento che ha segnato la sua vita e la sua carriera, ha abbandonato lo strumento per un paio d'anni e poi è stato soltanto il producer Norman Chesky della Chesky Records a convincere Jimmy Green a tornare a scrivere musica, a tornare a vivere da musicista, anche per celebrare la meravigliosa breve vita di sua figlia Anna. Beautiful Life è il titolo di questo album splendido, che vede la partecipazione poi di musicisti di prima grandezza come Christian McBride al contrabbasso, Lewis Nash alla batteria, vari pianisti da René Rosnes fino a Kenny Barron e Cyrus Chesnut, e la partecipazione poi di Pat Metheny, Jonathan Dubose, ma anche cantanti come Kurt Elling, lo stesso Javier Colón che abbiamo ascoltato, la Tanya Farrell, che hanno dato tutti una mano a Jimmy Green per ricordare sua figlia in Beautiful Life. E da questo album splendido, che io vi raccomando, vi faccio ascoltare un'altra composizione. Questo è un brano strumentale bellissimo, si intitola Last Summer, per Jimmy Green al soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. E questo era proprio il brano che dà il titolo all'album recente di Anthony Strong, pianista cantante inglese, On a Clear Day, un album molto divertente, molto ben realizzato da Anthony Strong con i suoi musicisti. È un album che noi raccomandiamo a chi non ha tante pretese ma vuole ascoltare comunque grandissima qualità. Invece chi ha il palato fine dovrà ascoltare e quindi acquistare, per ascoltarlo bisogna acquistare Love is a Pendulum, questo è il titolo del nuovo album del vibrafonista Joe Locke per la Motema Records, album ispirato da uno scritto di Barbara Spraga, che è una vocalist artista contemporanea residente a New York, che ha stimolato con un suo scritto la creatività di Joe Locke, che in studio di registrazione realizza questo album molto curato, molto ben realizzato anche nelle composizioni, con Robert Rodriguez al pianoforte, Ricky Rodriguez al contrabbasso e basso elettrico, il meraviglioso Tyrion Galli alla batteria, che ha anche partecipato alla produzione dell'album, e poi c'è la partecipazione come guest del sassofonista Donny McCaslin e anche di un campione italiano al quale noi facciamo naturalmente i nostri complimenti per la carriera e anche per questa fantastica partecipazione, ovvero il nostro amico Rosario Giuliani. Quindi chiudiamo con For Jesse Mountain, il titolo di questo brano scritto da Joe Locke per Love is a Pendulum, e noi ci risentiamo sabato prossimo a partire dalle 19:15 sempre qui su Radio 24 per il Soundcheck. Buona serata, buona settimana e buona musica a tutti da Gigi Telesforo.